ambiente. Recentemente a Londra si è concluso il festival Music Context, un festival internazionale dedicato alla musica ambientale. Il titolo stesso della manifestazione, cioè Musica e Contesto, indica chiaramente che questo festival si preoccupava di inaugurare, se vogliamo, un discorso nuovo sul suono e sulla musica. Sul suono non solo inteso come elemento estetico o di comunicazione estetica, e la musica come esercizio relegato in spazi specifici, ma cercava di iniziare un discorso che avesse come protagonista il suono nelle sue varie e molteplici manifestazioni anche nella vita quotidiana. Il Festival di Londra era stato preceduto da due festival, da due serie di manifestazioni simili che avevano avuto luogo in Italia nel 77, una a Firenze, una a Milano, e si chiamavano appunto Suono Ambiente. In tutte queste manifestazioni si cercava di fare il punto su quella che è sia la ricerca, se vogliamo, scientifica, su quelli che sono gli aspetti di medicina sociale, se vogliamo, gli aspetti sociologici e anche quelli artistici dell'uso del suono in contesti che non sono più quelli abituali della sala da concerto, ma in contesti finora rimasti al di fuori da una prassi, da una ricerca musicale più differenziata. Naturalmente è difficile cominciare o dare delle priorità in questi punti che ho elencato prima. Vorrei comunque cominciare a parlare di una ricerca, di un tipo di lavoro che da vari anni sta andando avanti e che ha contribuito moltissimo a aprire le orecchie a musicisti e anche responsabili del suono su quella che è la realtà sonora acustica quotidiana. Parlo del World Soundscape Project, che si potrebbe chiamare il progetto per lo studio dell'ambiente sonoro nel mondo. Il direttore di questo gruppo di ricerca, il compositore Murray Schafer, un canadese, 6 anni fa si accorse che mentre abbiamo sviluppato una differenziatissima terminologia e anche dei raffinati canali di percezione per quanto riguarda i suoni chiamati ufficialmente musica, ciò avviene in misura molto minore per i suoni quotidiani, cioè quei suoni che abitualmente ignoriamo, cerchiamo addirittura di non sentire. Il World Soundscape Project è partito da un corso che Schafer tenne all'Università Simon Fraser, un corso dedicato ai problemi della lotta contro i rumori. E per citare le sue parole, Schafer si convinse che oltre a una coscienza del rumore, cioè la coscienza dell'aspetto negativo del rumore, era importante sviluppare un approccio più positivo verso i suoni dell'ambiente, un approccio che permettesse di valorizzare, di apprezzare quei suoni dell'ambiente che sono interessanti, hanno un valore, hanno anche un certo valore simbolico, e cioè non limitare l'attività del musicista a creare ex novo dei fatti sonori, ma inserirlo anche in tutta questa attività di valutazione, di rilevamento, di studio dell'ambiente sonoro. L'attività pratica di Schafer iniziò con uno studio dei suoni della sua città, Vancouver, città portuale canadese sul Pacifico, e agli studi di questi suoni, di questa città, Schaefer dedicò un volume che si chiama appunto The Vancouver Soundscape, il paesaggio sonoro di Vancouver, accompagnato da un disco, anzi da due dischi, che evidenziano sia il lavoro di registrazione che il lavoro di analisi, il lavoro di ricerca della sua equipe nella loro città nella quale abitualmente vivevano. Sentiremo alcuni brani dai due dischi del paesaggio sonoro di Vancouver. Il primo esempio è un insieme di suoni di oceano registrati intorno a quella città a varie spiagge. Murray Schaefer, oltre al lavoro di registrazione di elementi acustici salienti interessanti, ha fatto anche un notevole lavoro teorico e pubblicato diversi libri sull'argomento ambiente acustico. Citiamo alcuni: The New Soundscape, cioè l'ambiente sonoro nuovo, il paesaggio sonoro nuovo, The Music of the Environment, la musica dell'ambiente. Inoltre, pubblicato recentemente, uno studio su 5 villaggi europei, uno in Italia, uno in Svezia, uno in Francia, uno in Gran Bretagna, uno in Germania, paragonando i dati acustici caratteristici di questi 5 paesi tra di loro. Schaefer, tra molti altri termini che ha coniato, che ha introdotto in questo nuovo dibattito sul mondo sonoro, ha coniato vari termini nuovi. Ho già parlato del soundscape, cioè paesaggio sonoro, e un altro termine, inglese landmark, viene trasportato nell'ambiente sonoro, diventa soundmark, cioè punto acustico caratteristico. Schaefer ha cominciato anche a analizzare questi punti o elementi o eventi caratteristici di varie comunità, di varie società, e ne ha fatta anche una collezione, se vogliamo, e ha cercato di rapportarli al modo di vita, al modo di produzione, di sopravvivenza e di vita sociale caratteristico della società in cui si manifestano. Vediamo ora un secondo esempio, il quale è situato nel porto di Vancouver. Come già dissi, Vancouver è una città portuale, perciò il porto è di una grande importanza per la sopravvivenza della città. Così questi suoni perciò indicano qual era un po' il punto di partenza della vita di questo posto. il termine soundmark, di cui ho parlato prima, effettivamente non è soltanto una trovata ingegnosa, ma può aiutarci a riflettere su quello che sono i soundmark, cioè gli elementi acustici caratteristici della nostra vita, nel senso che noi siamo abituati a percepire o aspettarci delle comunicazioni, delle informazioni sonore interessanti quasi esclusivamente dalle sale di concerto o da registrazioni di musica che normalmente viene suonata in sale da concerto o occasioni simili. Invece dovremmo cominciare a capire quella che è l'importanza dei suoni abituali, i suoni di ogni giorno per la vita in comune. Schaeffer ha tracciato il suo concetto teorico con grande chiarezza nel libro La musica dell'ambiente, The Music of the Environment, e vi cito alcune cose. Ha posto l'accento sulla necessità di ritrovare una autentica cultura uditiva. Infatti assistiamo a un fenomeno abbastanza preoccupante, diciamo, dal punto di vista di chi si occupa di suoni. Dal Rinascimento in qua, decisamente la comunicazione visiva ha preso il sopravvento su quella uditiva. Tutti abbiamo sentito parlare della civiltà delle immagini, mentre molto meno si parla di una civiltà del suono appunto inteso come elemento formato, elemento costruito, composto se vogliamo, ma elemento che non sfugge al controllo come sfugge oggi, ma diventa veramente integrato in una pianificazione, se vogliamo, dell'ambiente in cui viviamo. Continuiamo con un altro esempio che raccoglie alcuni dei sound marks, cioè degli elementi caratteristici di Vancouver. In questo caso sono tutti dei segnali di mezzi di trasporto o segnali appunto che indicano il passaggio di un treno, di una nave e così via. Questo aspetto del controllo dell'uomo sui suoni quotidiani è una delle preoccupazioni maggiori di Schaeffer, e vorrei leggervi il passo in questione dal suo libro. del libro appunto The Music of the Environment. L'ambiente sonoro nel mondo è una composizione aleatoria sottratta al nostro controllo, oppure siamo noi i suoi compositori ed esecutori responsabili? Le ricerche sul suono si sono imposte con crescente attualità da quando l'inquinamento da rumore sta creando problemi su scala mondiale. Sembrerebbe che l'ambiente sonoro nel mondo abbia raggiunto un culmine di volgarità nel nostro tempo e molti esperti ne hanno indicato come estrema conseguenza la sordità universale, a meno che non riusciamo a mettere sotto controllo questo pericolo in breve tempo. L'inquinamento da rumore si manifesta quando l'uomo non ascolta attentamente. I rumori sono i suoni che abbiamo imparato ad ignorare. Esiste oggi una certa legislazione contro l'inquinamento da rumore. Questa comunque parte da un approccio negativo. Dobbiamo impegnarci per fare dell'acustica ambientale una ricerca che parta da un approccio positivo. Per esempio, quali sono i suoni che vorremmo conservare, tutelare, diffondere? Quando avremo risposto a queste domande, sapremo individuare più facilmente i suoni noiosi, distruttivi ed eliminarli. Soltanto una valutazione globale dell'ambiente acustico può darci le risorse per migliorare l'orchestrazione del mondo. Quando ci sarà l'educazione alla percezione uditiva cosciente nelle scuole, non dovremo più ricorrere all'audiometria nelle fabbriche. Un altro aspetto che Schaeffer ha curato molto nei suoi lavori è il paragone tra ambiente rurale, naturale e cittadino. Su questo verte una grande parte del suo testo Exploring the New Soundscape, esplorando il nuovo paesaggio sonoro. Schaeffer così scrive a questo proposito: la prima cosa che notiamo nell'ambiente acustico naturale o rurale è che ovviamente esso è molto più quieto di quello della città moderna. Ma questo non è dovuto all'assenza di manifestazioni di vita. Piuttosto è dovuto al fatto che tutti i suoni presentati sono soggetti a cicli di presenza e di pausa. Gli emittenti sembra sappiano quando farsi sentire e quando rimanere silenziosi. Ambienti di questo tipo, non contaminati dall'affollamento di suoni competitivi, li definiamo ad alta fedeltà, cioè in essi vi è un favorevole rapporto segnale-disturbo. Ogni suono è informativo, ogni suono ha uno scopo ed è complementare agli altri. Lo stesso può dirsi della vita dei piccoli paesi che sono inseriti in cicli sonori periodici. Il passaggio da una vita rurale a quella cittadina comporta generalmente un passaggio da un ambiente ad alta fedeltà ad un altro a bassa fedeltà. Sentiamo un esempio di un ambiente ad alta fedeltà registrato in Italia, a Cembra, un piccolo paese del Trentino. It's 6 o'clock in the morning. It's 7 a.m. La registrazione, di cui abbiamo sentito una parte, si chiama Easter Day in Cembra, Domenica di Pasqua a Cembra, e consiste del montaggio delle registrazioni di 24 ore, effettuata appunto il giorno di Pasqua a Cembra. In queste registrazioni si evidenziano i cicli sonori di cui si è parlato prima, tipica di un posto di questo tipo. Per spiegare forse un po' meglio il concetto di alta fedeltà, naturalmente abbiamo anche qui molti suoni aggressivi, molti rumori, però a differenza di un ambiente a bassa fedeltà, immaginiamoci accanto all'autostrada per esempio, i singoli suoni possono acquistare una dimensione spaziale. Sentiamo passare da un punto all'altro, ci sono dei silenzi, cioè ogni suono può essere percepito più nel suo contesto che non in una situazione dove c'è un continuo brusio, un continuo ronzio che non permette di collocare sia nello spazio che nel tempo